modo particolare al nostro scrittore che siede al mio fianco, l'onore di stare a mio fianco, Marcello Nocciarelli, che è venuto tra di noi per presentare la sua ultima fatica letteraria, che ha un titolo abbastanza accattivante, La mano nera. Però a me piacerebbe presentare innanzitutto Marcello con una definizione che lui dà a se stesso, ed è questa: la carta è stata ed è tuttora la mia vita. E in un mondo ormai che va naturalmente sempre più informatizzato, parlare ancora di carta e di libri stampati è veramente meraviglioso, secondo me, perché forse un po' tutti noi qui presenti siamo, per carità, aperti al nuovo mondo, però la carta stampata ha il suo fascino innegabile che nessun computer, secondo me, potrà mai sostituire. Presentiamo un attimo il nostro scrittore dicendo che non solo è un uomo di carta, come ama definirsi, ma per 30 anni ha fatto il mestiere più bello del mondo, il libraio. Poi naturalmente è diventato scrittore, è editore, è giornalista, è tante cose insieme, ma soprattutto è un amante della letteratura, permettetemi il gergo che usiamo generalmente noi tutti, e letteratura gialla. Parliamo naturalmente del poliziesco all'italiana, il giallo è il colore famoso delle edizioni Mondadori, però è rimasto un po' a simboleggiare quello che per noi è il poliziesco, ma con una nota che un po' è dissonante, perché il genere che Marcello Nocciarelli segue è un genere particolare. Innanzitutto lui è un amante dei paesi del nord Europa e precisiamo nello specifico dell'Olanda, per cui i suoi gialli, non tutti, ma una serie di gialli che hanno come protagonista femminile una donna, un commissario, che si chiama Gretel van Witt, è ambientato ad Amsterdam, quindi una caratterizzazione che ha scelto, che ha amato, che ha studiato, perché dico studiato perché i riferimenti geografici che lui cita, per esempio in alcune pagine che riguardano strade o uffici o negozi, eccetera, locali soprattutto, sono veramente molto molto accurati. Tornando al tipo di giallo che lui ha amato e che noi, leggendo i suoi libri, abbiamo amato, dobbiamo aggiungere alla parola poliziesco aggettivo particolare, procedurale. Che vuol dire? Vuol dire che l'indagine non è opera di una sola persona, per cui Sherlock Holmes sono loro l'anima di tutto il romanzo, sono i geni che portano avanti il processo investigativo. Qui abbiamo assolutamente una persona che è perfettamente in grado di coordinare l'indagine, ma forse senza l'apporto della sua squadra i risultati non sarebbero poi così brillanti. Ognuno apporta qualcosa, loro si riuniscono quando c'è un mistero da risolvere in una stanza, la tana, come la definiscono, e lì parlano, discutono, litigano anche, ma alla fine con l'apporto di tutti il caso naturalmente viene risolto, perché sappiamo che la caratteristica del giallo qual è? Alla fine la giustizia trionfa e il colpevole viene scoperto. È una regola imprescindibile. La soluzione la dobbiamo trovare. La soluzione si trova. Però Aggiungo un altro tassello per la sua conoscenza. Non c'erai da molto spazio, e questo a me è piaciuto tanto, all'ambiente sociale in cui gli eventi si svolgono. E accanto agli eventi sociali, qualcosa che veramente leggendolo, leggendo soprattutto un romanzo in particolare, Il segreto di Groningen, mi ha particolarmente colpito. Questi due elementi si chiamano spazio e tempo. Lo spazio è importante, perché lo spazio ci dice sempre dove noi ci troviamo, e il tempo è un elemento fondamentale per capire come si snoda la vicenda. Se poi ci sono riferimenti al passato, come spesso accade nei suoi romanzi, il fatto di identificare questi due termini, da una parte lo spazio dove si svolge la vicenda, dall'altra il tempo in cui la vicenda si svolge, è veramente essenziale. Noi del resto, quando leggiamo un giallo, diventiamo piccoli investigatori. Spesso riusciamo anche a capire il bandolo della matassa prima di arrivare alla conclusione, soprattutto quegli esperti come la mia amica Enrica, che ormai è diventata lei investigatrice. È naturalmente una battuta coinvolgente, però tante volte lo facciamo. Il fatto di avere spazio e tempo sempre presenti, che ci guidano nella lettura, è secondo me veramente un fattore molto molto positivo. E poi ultima cosa che aggiungo: ha creato un ciclo di romanzi dedicati a questa donna commissario, una donna molto forte e fragile nello stesso tempo, perché ha le sue fragilità come tutti noi, una donna bella di circa 40 anni, che fa carriera, cioè nel primo romanzo lei non è commissario, lo diventerà nel corso dei vari libri che si vanno a leggere, che si serve della sua intelligenza, dell'appoggio della sua squadra e anche della sua grande veramente capacità di entrare nell'animo delle persone, nel riflettere, nel capire veramente l'essenza di quello che noi stiamo leggendo, fino ad arrivare alla soluzione del caso. Però io ho detto anche che è una donna forte, perché lo è, e fragile. La fragilità di questa donna sta nei sentimenti, un po' come tutti noi, che quando ci sentiamo coinvolti sentimentalmente diventiamo un po' tutti più fragili, e lei lo è in modo particolare, perché il suo amore, lei è divorziata, ha già avuto un matrimonio, è divorziata, però il grande amore della sua vita arriva quando ormai quarantenne, nel corso di una indagine che poi è il primo libro, sì, Il killer dei camerieri, incontra un giovane veramente affascinante, intelligente, di 16 anni più piccolo. E questo, che per molti potrebbe essere un impedimento, cioè basta, è troppo piccolo, no? Con ragionamento che spesso, soprattutto le donne facciamo, gli uomini non lo fanno questo ragionamento, lo facciamo noi al femminile, per lei diventa una sfida. E leggendo i libri poi vedrete come questo sentimento si evolverà nel corso del tempo e nel corso anche dei vari romanzi, che sono tutti autoconclusivi naturalmente, però ogni romanzo apporta nell'ambito non solo del commissario, adesso diventata commissaria, ma anche tra la stessa squadra, dei cambiamenti. Quali sono questi romanzi? Li leggo. Primo, premetto che sono tutti pubblicati da Keringa. Nel poi, diciamo il primo no. Il primo ha avuto una storia particolare, perché poi lo chiarirà Lina, sì, ha avuto una storia editoriale complessa. Un po' diversa. Complessa. Ma anche il segreto di Groningen, pur all'interno di Alchering, ha una sua evoluzione. E questo poi sarà il compito dell'editore. Allora, i cinque libri sono Il killer dei camerieri, che naturalmente camerieri, che la parola camerieri fa pensare all'Italia. È vero che ci troviamo ad Amsterdam e nell'amata Olanda, però quando parliamo di cantanti e camerieri, il pensiero è sempre all'Italia. Ma è, accadono dei fatti misteriosi, una serie ad Amsterdam, una serie di camerieri italiani senza un'apparente motivazione, perché non si spiega, vengono assassinati. L'ultimo poi in maniera veramente molto, molto efferata, molto violenta. Poi abbiamo Il segreto di Groningen, che secondo me è veramente un gioiello nella narrazione di Nuccerelli. Perché? Perché parte dal vecchio commissario Tobias, che sarebbe il commissario che precede Grethe, ma questo commissario, che viene assassinato insieme alla moglie, dà il là a una storia di una misteriosità, di una bellezza veramente incredibile, perché affonda le sue radici nell'Olanda occupata dai nazisti e in un segreto che non è soltanto un segreto, diciamo, bellico, ma è un segreto artistico, culturale. E veramente è un romanzo che mi permetto di consigliare a tutti. Seguono La pista portoghese, un'inchiesta sordida, e infine il libro per cui noi oggi siamo qua riuniti, di cui poi vi parlerà l'editor, perché l'editor l'ha proprio, non dico letto, ma digerito proprio, ma anche di più, La mano nera. Non voglio lasciare però la parola sia a Lina sia a Maria Giovanna prima di aver menzionato un libro che non ho letto, però mi ha tanto incuriosito e che naturalmente vi propongo di leggere quanto prima, che è intitolato Il professore. Perché? Perché è sulla, da quanto noi abbiamo detto, cioè non abbiamo né Amsterdam, né il commissario Grady De Witt, non abbiamo la squadra, ma abbiamo un uomo cinquantenne, di grande cultura, molto riservato, che gioca a scacchi da solo, in solitaria, e che in un paesino in provincia di Cesena, che si chiama Prato Grande, frequenta il bar, come una volta e anche oggi facevano i nostri anziani, i nostri conoscenti, ma del resto ancora adesso. Andiamo in piazza, il bar è sempre pieno di gente che sta lì, che conversa, che chiacchiera. Ma perché è conosciuto questo uomo dall'apparenza dimessa e che tutti chiamano con l'appellativo di il professore? Perché non solo è una persona molto colta, come precedentemente ho detto, ma ha una capacità sua innata, quella di ritrovare oggetti smarriti, animali che si sono persi, e questa sua capacità di essere altamente logico viene però reclamata per un problema molto più importante di queste piccole ricerche da un ragazzino, Tommaso, sedicenne, il quale interpella il professore perché la sua compagna amatissima, Tina, è sparita. Quindi il ragazzo di chi si fida? Proprio del professore. E lui e il professore inizieranno questo viaggio che li porterà naturalmente alla soluzione del mistero. Quindi ho seminato, penso, varie piccole curiosità. E adesso però, per il libro in questione, lascio la parola a Maria Giovanna, che vi presenterà proprio La mano nera. Sì, come già vi ha accennato Rosaria, io ho curato l'editing di questo libro, anche se devo ammettere che poi in realtà i miei interventi sono stati minimi, perché Marcello è un professionista. Il romanzo era praticamente perfetto. E Marcello è un professionista sia perché è un bravissimo giallista, ma anche perché è lui stesso editor. Quindi questo si vedeva, anzi diciamo che si leggeva tra le sue pagine, perciò per me è stato un lavoro abbastanza semplice. Quello che non è semplice adesso per me invece è parlare di questo libro, proprio perché lo conosco a menadito ed essendo un giallo devo fare attenzione a non ricordare troppo, non è facile. Quello che vi posso dire è che avendolo approcciato come editor, quello che ho fatto durante la lettura è stato proprio analizzare i minimi dettagli, anche segnandomeli di lato, in modo da poter poi alla fine vedere se tutto combaciasse o se comunque qualche dettaglio potesse anticipare troppo magari la soluzione finale. Quello che vi dico è che nonostante io abbia lavorato in questo senso, nel momento in cui mi sono trovata davanti alla svolta ho detto oh wow, però... E infatti lui l'ho scritto, gli ho scritto questa idea è geniale, mi è piaciuta tantissimo e non ci ero arrivata. E lui mi ha detto bene perché era proprio quello che io intendevo fare, era proprio in questa direzione che volevo portare il lettore. Quindi vi dico che sicuramente non resterete delusi perché io stavo indagando molto a fondo e non ci sono arrivata. Sono arrivata soltanto ecco, con il lettore. E questa è una garanzia. Invece più nello specifico parliamo della storia, anche qui devo stare un po' attenta. Quello che vi dico è che tutti i romanzi che Rosaria ha nominato sono stati sicuramente romanzi ben costruiti, ma questo secondo me ha un qualcosa in più dal punto di vista della complessità della struttura narrativa, secondo me, perché sfiora la spy story. La sfiora soltanto, non è una spy story, perché quelli che sono gli intrighi internazionali fanno un po' da sfondo per delle vicende personali, io direi addirittura intime, di un gruppo di personaggi. Ci sono delle fratture, delle ferite familiari molto profonde che in qualche modo muovono la storia. Io adesso non posso entrare nello specifico, ve lo dovete leggere, però quello che vi posso dire è che sì, tutto questo affonda le radici in un periodo storico dell'Europa dell'Est che forse adesso come adesso è anche un po' dimenticato. Quindi secondo me è stato molto molto interessante riscoprire questo periodo che Marcello ha saputo gestire proprio con grande disinvoltura. Io lo trovo veramente veramente interessante. E diciamo che tutto quanto gira intorno a questa mano nera. La mano nera è il titolo del romanzo e che cos'è la mano nera? È un tatuaggio. È un tatuaggio che viene trovato sulla vittima. Noi la vittima in questo caso la scopriamo subito, è una signora sui 70 poco meno che viene uccisa davanti alla porta di casa sua da una perfetta sconosciuta. E qui interviene Grady con la sua squadra e comincia l'inchiesta. Il problema è che non ci sono appigli, Grady non riesce a trovare appigli neanche la sua squadra, sembra che qualsiasi indizio non porti da nessuna parte, tanto che a un certo punto loro arriveranno a dire che forse questa volta il caso non lo risolveranno. Invece a un certo punto comincia a muoversi qualcosa, qualche tassello, sia per in seguito a intuizioni di qualcuno della squadra, sia per interventi esterni. Pian piano comincia a muoversi qualcosa e ci muoviamo verso la soluzione finale. Ovviamente io anche su questo mi devo fermare. Aggiungo solo una cosa. Per chi ha seguito Marcello fin dall'inizio, ha letto tutti i romanzi, sicuramente ci saranno delle novità anche per quanto riguarda Grady, De Witt e la sua squadra. So che molti di voi la amano molto e nella sua squadra ci saranno novità personali, ci saranno novità personali anche per Grady, questo l'ha accennato anche Rosaria. E c'è un nuovo personaggio, un new entry nella squadra, un personaggio molto molto interessante, che secondo me ci riserverà grandi soddisfazioni in futuro, ho avuto questa impressione. Non so Marcello che cosa ha da dire in proposito, ma io penso che ci riserverà soddisfazioni, così come è stato impostato. E non posso andare oltre, perché so troppo, quindi è meglio che non parlo. Possiamo dire il periodo storico a cui fa riferimento? Lo vogliamo dire questo periodo? Possiamo, sì, vabbè, tanto sì, non rivela niente di particolare. Stiamo parlando comunque di Ceausescu. Sì, perché veramente è un momento storico poco conosciuto, fa parte della storia recente, quindi andare un pochino ad affrontare una storia che ancora oggi molti abitanti della Romania, che noi magari anche conosciamo, non vediamo delle nostre amici, ricordano perfettamente, è difficile, perché si toccano dei tasti ancora troppo recenti per poterli definire storici. E infatti, come ho detto, forse lo conosciamo poco. Che lo conosciamo veramente poco. E qui Marcello va veramente a toccare un'ambientazione, una parte di questa storia sconosciuta, ma estremamente interessante, senz'altro. Devo dire che lui, ogni volta che fa queste cose, sia quando ti porta in una città, sia quando ti porta in queste storie, non lo fa mai così. Cioè, quando leggi tu capisci che lui comunque sa quello che sta dicendo. Tu stai dentro quello, non è superficiale quello che dice. Sì, ma infatti pure quando cammini per la città insieme al personaggio, tu hai la sensazione di stare lì, non ti sta descrivendo una città che non conosce. E lui ha detto Amsterdam è la sua seconda patria, quindi Amsterdam è la sua seconda patria, quindi... Ma è meticoloso nel scrivere. Sì, ma infatti spazio bello. Tempo, tu fai lì, dice, allora qui c'è questo che... Nella quasi di vederlo, fazione no? Tanto questo si può dire, la postfazione della Mano Nera, infatti c'è scritto che questo romanzo stava in gestazione da parecchio, però lui aveva bisogno di tornare ad Amsterdam per vedere dei particolari, e non potendo andare con il Covid ha dovuto allungare i tempi. Infatti, e ha scritto il professore. E ha scritto il professore. E mi ha mandato questo romanzetto, lui l'ha definito il romanzetto, ma ha scritto un romanzetto per consolarmi un po'. Sì, ma infatti si vede anche per quanto riguarda la Romania, che il lavoro di ricerca dietro è stato immenso. Poi il bello è che per questi libri tu hai un lavoro di ricerca gigantesco per scrivere 5 righe poi di quello. Però c'è il lavoro dietro, perché lui, anzi, poi nelle discussioni che abbiamo fatto chiacchierando, mi ha dato anche altri dettagli, insomma, di quello che di quella conoscenza, che nel libro poi in realtà non trovano spazio, però tu li devi sapere per poterlo scrivere. Posso dire sì, qualcosa? Sì, sì, sì, adesso. Innanzitutto, grazie di essere qua, vi ringrazio di cuore. Questo lavoro di ricerca a cui accennava Maria Giovanna è stato soprattutto per Il segreto di Groningen, perché lì si parla dell'Olanda del periodo della Seconda Guerra Mondiale, in particolare del ghetto ebraico di Groningen, e quindi quando scrivi di certe cose non è che puoi inventartele. Io ho comprato 4-5 libri in inglese da librerie sparse, me li sono letti tutti. Risulteranno nel libro una decina di righe di questi 5 lì, e però erano necessari per non dire stupidaggini, ecco, fondamentalmente per essere credibile, perché sì. Poi è la prima cosa che ti insegnano quando fai i corsi di scrittura, ti dicono subito devi essere credibile, perché altrimenti cioè il lettore è intelligente, non dobbiamo trattarlo da stupido che non capisce quello che c'è scritto qua nel testo. Quindi... Se adesso ci vuoi anche tu un po' introdurre... Beh, io vi posso parlare della mia storia con Marcello. Io praticamente oggi sono andata a riguardare quando Marcello mi ha mandato la prima email. Al di là che forse avevamo avuto qualche rapporto di pubblicazione con qualche antologia, forse avevo già fatto un'antologia o due di quelle che ho curato con Alkeringa, e poi vabbè, ho visto che attecchivano pure poco e mi richiedevano tanto lavoro e ho smesso. Avevi mandato qualche raccontino, mi pare, ti avevo già pubblicato qualche raccontino, adesso devo guardare in quale antologia, forse non so se quella Natale dintorni però... o quella... no, mi sembra forse qualcosa prima, però non me lo ricordo, no, mi sembra prima, credo. Oh, però lui mi scrisse questa email nel luglio del 2014. Io, naturalmente, casa editrice da sola, dovevo valutare tutti questi testi che arrivavano, mi sono resa conto quando sono arrivata al suo testo, più di un milione di battute, perché Il segreto di Groningen è quello, il secondo che sta, beh, non sembra tanto alto, ma insomma sono 450 pagine. Poi la prima edizione, appunto, si è evoluta la prima edizione, aveva un formato proprio misure leggermente più strette e quindi era ancora più alto, 550 e oltre erano. E poi quando abbiamo fatto gli altri abbiamo fatto un formato leggermente più quadrotto e abbiamo dato uno stile di copertina, abbiamo creato la seconda edizione che però all'interno ha solo qualche correzione di refuso, cioè non è stato cambiato niente perché era perfetto. E io mi sono accorta quando ho visto questo testo lunghissimo, che erano passati quasi 6 mesi da quando lui mi aveva mandato l'email, e allora mi interessava perché giustamente lui già allora scriveva bene, dopo è migliorato ulteriormente, giustamente. Gli ho scritto perché ho chiesto, dico, se il testo era ancora libero, altrimenti fare un lavoro di quel genere ti richiedeva 10 giorni, 15 giorni di valutazione, e poi ti dicono no, io ho già pubblicato oppure ho già firmato un contratto, perché quando mi arrivano i testi io vado a valutare, faccio la ricerca su internet, se è stato pubblicato allora dico beh, ha pubblicato, non lo valuto. Però quando c'è quella fase in cui hai firmato il contratto, ancora sta in editing e non è stato pubblicato, tu non lo sai, quindi passano magari 2 o 3 mesi, tu non lo sai. Allora gli ho scritto, lui mi rispose: guarda, c'è una casa editrice interessata, infatti adesso ne parlavamo scendendo adesso, sì. Però non mi ha dato nessuna risposta, dice per il momento è libero, quindi lo puoi leggere. Io, va bene, dammi una decina di giorni. Invece in meno di una settimana io gli ho risposto, ho fatto di guarda, mi interessa, cioè. E lì è nata la nostra collaborazione e sono felice di questa cosa, perché in effetti si è creato un rapporto. Che ormai è diventata un'amicizia. Sì, è diventata un'amicizia, perché poi ecco lui, non so se sei sceso, Groningen è uscito nel 2015, la prima edizione, non so se sei venuto proprio nel 2015 o nel 2016, mi sa sei venuto giù, e l'anno successivo pure è venuto, perché ha presentato, nel 2016 ha presentato Il segreto di Groningen lì alla... allo Sporting di Davide Fivoli, che è venuto pure oggi, però aveva bisogno di andare a casa, quindi se n'è andato, il padre non sta bene. E poi è venuto pure l'anno successivo, abbiamo presentato La pista portoghese, perché uno l'anno lui in Sforna, poi ecco si è fermato un po', ha rallentato un po', e quindi ecco, gli ho pubblicato tutti questi libri. A un certo punto mi ha detto, visto che abbiamo questo... Io adesso lo chiamo col nome che abbiamo noi, il killer dei camerieri, perché il sottotitolo, che era il titolo originario del primo, dillo tu perché io... Morte l'Iceplane. Ecco, l'Iceplane, cioè, perché non ci riesco mai a dirlo. Era stato pubblicato da un'altra casa editrice, che però, come ci ha detto l'altro giorno nella lezione Marcello, è andata fallita, quindi era rimasto così. Questo libro dice, io adesso lo vorrei mettere fra gli altri, quindi... Lo ha corretto, chiaramente, lo abbiamo rieditato e è tutt'altra cosa rispetto al primo. E lì è cominciata appunto questa collaborazione che io spero che continui, anche se non ci sarà più la squadra di Creative, ho capito che il prossimo non è... No, il prossimo è una cosa sarà diversa, una cosa nuova. Però poi la riprendiamo. Però la possiamo riprendere qua e là, sì. Quindi non... anche perché adesso Creative, quando leggerete, sarà in una situazione che... Di cambiamento. Di cambiamento, quindi probabilmente non... Cioè, sì, lavorerà ancora, perché certo. È una donna moderna. Non ce la vedo a non lavorare. Ecco, una donna moderna, una donna di polso, e quindi io sono convinta che continuerà a indagare. Ma come? Le bottini. Ah, sì, beh, lui mi sottolinea. Cioè, per sottolineare la bravura di Marcello, io sono... Cioè, vado a queste fiere... locali, sono stata alla fiera di Nepi, c'è stato un signore che è venuto, è passato, ha guardato il titolo, l'ha intrigato, Il segreto di Groningen. Poi io gli ho fatto, dico, beh, gli ho detto più o meno qualcosa come gli hai detto tu, la seconda guerra mondiale, l'arte, queste cose, mi intriga questa cosa. Allora me lo consigli questo libro? Dico sì, dico io so che con Marcello vado sicura, faccio bella figura. Ti faccio sapere dopo che l'ho letto. Questo signore mi ha riscritto 15 giorni dopo, mi aveva detto pure che mi avrebbe mandato dei testi, gli ho pubblicato 2 libri pure a lui, il secondo è uscito da poco, e infatti l'8 e il 9 di giugno andrò a Bracciano a Barchette di Carta, e questo signore presenterà il suo primo libro lì, e il secondo pure glielo porto lì. E praticamente mi ha scritto e mi ha detto nel testo dell'email: ho letto questo libro e mi è piaciuto tantissimo, E tu, ma qualcosa allora nell'editoria italiana non funziona. Perché dice, questo libro è migliore di altri libri che ho letto di autori famosi. Dice, perché questo autore non fa successo? Perché come facciamo per fargli fare perché successo? Perché non ce l'abbiamo nella prima serata su Rai 1 con una serie televisiva. E infatti io so che lo perderei come autore se riuscissi a promuoverlo in modo diverso, però ne sarei felice, nonostante che magari non ce l'avrei più come autore, ma sarei orgogliosa di dire, beh, l'ho scoperto io. Io adesso ho lasciato la parte. Di cosa vi devo parlare? Fate qualche domanda pure se avete qualche curiosità, quindi a lui, a noi, a chiunque. Parlando del romanzo nuovo, allora comincio dalla copertina. Abbiamo accennato prima che ci sono luoghi, descrizioni la foto di Marcello, quindi... quella della copertina io l'ho elaborata con un programma, però dopo ho aggiunto c'è qualche Coimbra, quello ce l'ho aggiunto io perché lì quella è molto importante. Perché quel ristorante lì non... Però dovrebbe teoricamente, nella realtà romanzesca, essere un ristorante di Amsterdam. Un ristorante portoghese. Portoghese ad Amsterdam. Che esiste realmente, era questo punto che vi volevo dire, è in quel punto lì ed è considerato forse il migliore ristorante portoghese. C'hai cambiato solo il nome. Di Amsterdam, ma si chiama Tasca e non Coimbra. E io gli ho cambiato il nome e da particolarmente importante nella trama, perlomeno quello che si sviluppa attorno a questo ristorante, a chi lo gestisce e a chi ci lavora. E poi io cos'altro vi posso dire senza... Vogliamo parlare un po' dei personaggi e... Allora, dirò una cosa. Si ricollega questo libro al terzo, alla pista portoghese. Sì, sì. Nella pista portoghese avevo adottato una tecnica narrativa un po' diversa dal solito, nella quale il lettore era più avanti rispetto a Grete e alla sua squadra e conosceva particolari che la polizia non conosceva. E così si risolve alla fine in maniera che il lettore sa esattamente come sono andate le cose, ma Grete e la sua squadra non lo sanno con esattezza, sanno quello che è successo, però siccome poi la conclusione della vicenda della pista portoghese non è in Olanda, ma addirittura in Ungheria, rimangono così un po' stupiti di come si è risolta la cosa, ma non hanno gli elementi per conoscere effettivamente lo sviluppo della storia, elementi che avranno importanza solo in questo libro. Nel quarto non succede niente, ma qui ritorna un personaggio che aveva avuto una particolare importanza nella pista portoghese e che Grete e la sua squadra non hanno mai conosciuto, però lo conosceranno molto bene in questo romanzo a loro spese, perché è un personaggio, diciamo, che non appartiene ai buoni sicuramente, ecco. Di più faccio fatica a dire senza rivelare. Senza svelare. Naturalmente le storie dei cinque libri sono tutte autoconclusive, nel senso che comunque le leggi dall'inizio alla fine e capisci. Ci sono certo i riferimenti, perché la squadra, i personaggi nelle cinque storie ci stanno quasi tutte, poi ecco c'è Martin e Grady che ci stanno sempre, e come è logico praticamente c'è l'evoluzione, perché ci stanno le date sui capitoli dei libri, quindi capisci in quanto tempo si sono evolute le varie storie, però appunto i personaggi evolvono. Succedono delle cose a loro, sono quelle che succedono, però non è che, per esempio, io per esempio leggendo questo, quando ho fatto la rilettura, che ho fatto solo la rilettura finale appunto, se l'hai editato lei, non ricordandomi tutto, nonostante che li ho pubblicati, io leggo, non so quanti libri leggo di autori, quindi particolari di tutti questi libri, non me li ricordo. L'unico che mi è rimasto un po' più impresso è Il segreto di Groningen, forse perché è il primo che ho editato, nonostante che sia il secondo praticamente della serie. Diciamo quei particolari che non mi ricordavo, non mi sono mancati nel leggere la storia. Quindi significa che se leggi l'ultimo non è che dice, ma non l'ho letto i primi, allora non posso leggere l'ultimo. No, è impostato in modo che ci siano comunque gli elementi per capire. Sì. Lui i riferimenti sotto li fa in nota, questa cosa qui ne ho parlato in questo, ma non è essenziale. Sì, ma ti metti proprio gli strumenti per capire comunque la storia. Sì. Sì. Aggiungo una cosa che secondo me è importantissima, sì, proprio perché la composizione. Nelle pagine iniziali una nota ci dice chi sono i personaggi principali. Infatti lei l'ha detto, questo è importantissimo. L'abbiamo anche rilevato precedentemente, no? Quando abbiamo fatto la lezione. Perché nel caso io, lettore, abbia dei dubbi o non ricordi bene, vado alla prima pagina e mi trovo tutti i protagonisti principali e secondari con a fianco una dicitura che li qualifica e che mi permette di ritrovarli subito e di dare a loro un senso, un significato e una collocazione. Per esempio, non so, insegnante, compagno di credi, Marte, no? Questa è importante. Oppure Giovanna, che è, insomma, la barista, io leggo, perché il personaggio è secondario, anche se è importante, ma lì sto il caffè, vai. Quindi, questa sì, mentre fai la lettura, se hai un attimo dici chi è questo, vai a guardare, lui te lo spiega. Come ho detto prima, lo spazio, il tempo, questo, tutto ha un fine preciso, secondo me, aiutare il lettore. Laddove molti autori non fanno altro, soprattutto dei gialli, non fanno altro che confondere le idee del lettore, che certe volte si trova veramente smarrito, soprattutto negli spazi temporali, no? No, lui invece no, è molto... Qui abbiamo uno scrittore che guida il lettore, è lui il filo conduttore della storia, che ci porta insieme con i protagonisti, piano piano, capitolo per capitolo, a scoprire chi sarà poi, naturalmente, il colpevole e soprattutto perché. E alla fine sei sempre sorpresa. Sì, e poi il finale a volte, soprattutto qui, a volte è anche doppio. Sì, infatti, ecco, c'è un paio d'altro. È doppio, tu pensi di aver capito tutto. No, e sapere tutto. Io non avevo letto attentamente nella rilettura e proprio in quello, intanto ci siamo capiti, non lo possiamo dire, no, lo dici, no, mi sono confusa, ho fatto, dico, ma c'è qualcosa che non... E sono tornato indietro. E invece si capiva bene. Sì, bello che io mi ero messo una serie di appunti, verificare se a un certo punto, ops, ma qui che cosa succede? E beh, lì è la bravura. È il segreto di tutto, è la chiave di tutto. Allora, posso dire una cosa? Innanzitutto, per questa cosa dei personaggi, l'ho già detto l'altra volta nell'incontro, però mi piace ripeterlo, dico grazie a mia mamma, che allora già novantenne, lesse Il segreto di Groningen e mi dice, Marcello, sì, bello, ma tutti quei personaggi, tutti quei nomi, non, a un certo punto non mi ricordavo più chi era questo, perché non fai un elenco dei nomi? E da quel momento in poi io ho sempre fatto l'elenco dei nomi dei personaggi. E quindi questo grazie a lei. E niente, volevo dire una cosa che tu prima hai accennato parlando di Martin, ma non ne abbiamo ancora parlato di Martin. Martin, diglielo a questi nostri, chi è Martin? E perché c'è Martin? E perché c'è Martin? Allora, Martin è il compagno di Grete, ha 16 anni meno di lei nel primo romanzo, lui ha 23 anni, Martin è 39, esatto, lui è bello, alto, biondo, doppia cittadinanza, doppia cultura italiana e olandese perché è figlio di un ristoratore della Romagna e di una signora olandese, poi il matrimonio non è andato a buon fine. E però lui è rimasto in Olanda, ma parla entrambe le lingue e ha conoscenza di entrambe le culture. Ecco, tutto questo personaggio rappresenta quello che io avrei voluto essere e che non sono, perché non sono né alto, né biondo, né bello, e non ho la conoscenza della cultura olandese, e quindi è lui a cui mi sono ispirato quando ho iniziato a scrivere. Tutti pensano che io abbia iniziato a scrivere pensando, ideando il personaggio di Grace, e invece no, io ho iniziato a scrivere pensando a Martin, solo che per tutte le caratteristiche che abbiamo detto, ha 23 anni nella prima inchiesta, ma ne dimostra sì e no una ventina, non poteva essere ovviamente l'investigatore, il detective, l'ispettore troppo di polizia, giovane. Troppo giovane, e quindi aveva bisogno di una persona accanto, e a quel punto si è creato Grete, che molti in questi incontri mi hanno chiesto chi ti sei ispirato. Grete è un personaggio assolutamente di fantasia, invece Martin è di fantasia anche Martin, però mi sono ispirato al mio ideale personale. Questo. Ma anche lei è romagnolo? Lui è nato a Verona, però si è vive a Fortino. Romagnolo, sì. Sì, sì, sì. Si sente tutto. Sì. C'è pure una strana somiglianza con Tinto Brass. Romagnolo anche lui, un atteggiamento proprio. Ah, okay. Sono romagnolo d'occhio. Si sente. Se avete qualche domanda, che volete qualche chiarimento, qualcosa, qualche curiosità, se voi. Io una curiosità ce l'ho, quindi anticipo tutti e la dico anche perché è divertente. Allora, in un suo articolo Marcello ha definito i libri, definiti proprio lui così, libri grassi e libri magri. Adesso gradirei che lui ci desse una spiegazione. Qui si riferiva soprattutto a un discorso di tecnica di editing, sì. Appunto. Quindi più che libri si tratta di manoscritti che io ricevo. Alcuni grassi nel senso che sono troppo abbondanti, ci sono troppe cose che non sono importanti e che alla fine annoiano il lettore. Altri invece sono magri, nel senso che è tutta azione, ma non c'è niente di contorno. Per dire, Luigi deve andare a casa di Franco perché succede qualche cosa, perché l'autore scrive, Luigi va a casa di Franco, e poi, ma come ci va? Ci va in macchina, a piedi, in tram? Cosa vede andando a casa di Franco? Entrambi vede. E casa, che cos'è casa? Casa può essere un palazzo di 10 piani, può essere una catapecchia, può essere una palazzina. Ecco, sono gli errori tipici di chi manda dei manoscritti, che non sa dosare le informazioni. Ecco, le informazioni sono importanti per costruire un ambiente, per calare il lettore dentro la storia, e però non devono passare oltre, non devono diventare loro stessi la storia. L'ambientazione non è la storia, l'ambientazione è quel insieme di oggetti, cose, figure che ti permettono, leggendo, di dire ah sì, allora ti fai un'immagine visiva della scena. Senza quella, io anche quando leggo, perché ce ne sono molti di romanzi, soprattutto i gialli americani, molto spesso io non riesco a vedere la scena, ecco. E se tu mi dici entra in casa, io cos'è casa? Ho bisogno di vedere che sale le scale, che prende l'ascensore, che apre una porta vecchia arrugginita, oppure un bel portone. Ecco, io ho bisogno di vederlo e voglio che anche il lettore lo veda, ecco. Questo era il discorso di libri grassi e libri magri. Per me è importante. Poi lo scrittore bravo deve saper dosare queste cose, perché a seconda del ritmo della storia, le descrizioni sono importanti, eccetera. Però se entriamo in una scena d'azione in cui c'è un caso del giallo, un agguato, un tentativo, non ti puoi mettere a descrivere tutto quello che c'è attorno, perché sennò l'adrenalina si azzera immediatamente. Quindi lì deve essere, in quel momento deve essere sì tutta azione, perché devi far dire scorrere, cioè. E poi deve invece venire il momento di, in cui si rilassa e si percepisce, deve esserci questo sbalzo nel ritmo in un romanzo scritto bene, almeno secondo me, ecco. La giusta misura delle cose. E questo rapporto con l'Olanda come nasce? Approfondito, mi sembra aver capito. Quindi sì, nasce da un fatto particolare, casuale, nasce o un interesse specifico? Sono andato per la prima volta in Olanda nel 92. Avevo una piccola libreria cartoleria, l'ho chiusa il 4 di luglio, ho venduto e ho detto adesso per 6 anni non ho fatto praticamente mai le ferie, adesso voglio fare le ferie, vado in Olanda, non sono mai stato, il 1 agosto sono partito, sono andato in Olanda per 20-21 giorni e mi sono innamorato non di una persona fisicamente, mi sono innamorato dei luoghi, mi sono innamorato della cortesia della gente, della popolazione e più o meno di tutto, a parte la cucina che forse è meglio a casa nostra sicuramente e magari anche le condizioni atmosferiche che non sono sempre, per quanto anche da noi ormai, però vabbè. E quindi ci sono tornato altre 29 volte dopo, tanto che a settembre del 22, quando, anni praticamente, sì, all'inizio sono andato anche 3 volte in uno stesso anno, quando c'è stata la finale della Juventus con Real Madrid ad Amsterdam, che non siamo riusciti a entrare perché i biglietti non c'erano più, però sono stato 5 giorni, mi sono... Non ho visto la partita, però ho visto l'Olanda. E quindi a settembre del 22 ho festeggiato 30 anni dalla prima volta e la 30ª volta. E quindi è nato così l'amore per l'Olanda. Ecco, la lingua invece praticamente l'hai imparata dopo? No, io la lingua proprio non l'ho imparata. Perché l'olandese lo conosco. Ma insomma, qualche regola di pronuncia l'ho imparata. Beh, l'inglese. Il problema, che non è un problema, insomma, è che in Olanda tutti, assolutamente tutti, quando dico tutti, intendo proprio tutti, parlano inglese e bene. Io l'inglese lo conoscevo, per cui non mi sono trovato nelle condizioni di dover imparare le parole della loro lingua. Nel 92 non avrei mai sospettato che a distanza di anni avrei iniziato a scrivere dei libri ambientati in Olanda, se no mi sarebbe piaciuto imparare la lingua. E quindi con la lingua sì, ho imparato una 30ina di parole, però al di là di quello non con la lingua olandese, che non è proprio facilissima, soprattutto nel suono, nel parlato, perché aspirano tutte le G e le H, sono tutte aspirate. Se pensate, per esempio, se un italiano gira per Amsterdam e chiede la strada per il museo Van Gogh, capiscono, perché dopo anni che sentono dire Van Gogh capiscono di chi si sta parlando, ma per loro Van Gogh, la pronuncia è più o meno Van Gogh, perché la V si pronuncia F come in tedesco e la G e la H si aspirano, per cui è venuto un suono culturale e quindi è un po' così. Scusi, volevo sapere, ha pensato di ambientare un bel giallo a una città come Roma, tra l'antico e il moderno? Una città come Roma, non ho capito l'ultima parola. Ambientare un libro giallo. Sì, sì, ma dopo Roma ha detto qualcos'altro che non ho capito. Beh, un ambiente antico e moderno. No, a Roma no. Ho conosciuto Roma abbastanza bene, ma tanti anni fa, quando ero in una scuola privata, accompagnavo i ragazzi in una scuola del tipo 2 anni in 1, 3 anni in 1. E i ragazzi venivano a Roma a dare gli esami di idoneità sempre nel mese di giugno, quindi il mese di giugno lo passavo quasi tutto a Roma, venivo con un gruppo, stavo 6-7 giorni, tornavo a Forlì, dopo 2 giorni ripartivo con un altro gruppo, quindi... e a quel tempo Roma la conoscevo abbastanza bene, ma sono passati tantissimi anni e adesso non ho non ho le conoscenze per poter ambientare come piace a me un romanzo a Roma, perché non la conosco, non la conosco sufficientemente bene. Dovrei stare un po'. Non è un ambiente che mi piace, cioè. No, non è che non mi piace, è che non lo conosco più in maniera approfondita per poterci ambientare un romanzo, per come io intendo ambientare un romanzo. Ecco. Dicevamo prima, non è? Quel libricino, Il professore, è uscito nel periodo del Covid, perché io stavo scrivendo La mano nera e avevo scritto le prime 70-80 pagine in cui non avevo bisogno di nessuna documentazione. Poi invece dovevo spingermi in zone della città che conoscevo non bene e avevo bisogno di approfondire, ma c'era il Covid, non mi potevo muovere. E quindi a quel punto lì ho detto, vabbè, adesso scrivo qualcosa ambientato qua dalle parti di casa mia che la conosco, e ho scritto Il professore. E poi quando è stato possibile di nuovo viaggiare, sono tornato appunto fra fine di agosto e inizio di settembre del 22, sono tornato ad Amsterdam, ho visto, fotografato i posti dove intendevo ambientare la seconda e la terza parte del romanzo, e quindi ho potuto. Per questo non mi sentirei di... Hai fotografato praticamente tutti i palazzi dell'alta finanza di Amsterdam. Sì, certo, ma non solo, anche quello dove abita il geometra, questo strano personaggio che ogni tanto appare fra i quadri. Molto importante, no? Il geometra. È un personaggio che ha una storia parallela a quella della squadra e che apparentemente è inutile. Per tutto il tempo ti chiedi perché. E tu per tutto il romanzo dici, ma questo tipo, il geometra, ma che c'entra? Perché ogni tanto alcune pagine, alcune righe sono dedicate a questa persona così banale, insignificante? E invece poi troverà la sua collocazione. Ok, noi penso che... Per quello che dovevamo dire abbiamo finito. Se qualcun altro ha qualche altra curiosità, sono qua. Io volevo sapere se ho visto che Martin gioca a scacchi. Sì. È anche una sua passione. Sì, certamente. E con noi gioca a scacchi, lei, a noi, con noi lettori, ci porta su false piste o... Sì, anche, sì, anche il professore gioca a scacchi. Sì, per quello ho sentito che anche il professore, per quello E fuma anche la pipa, che anche io fumo. È un giocatore solitario. Mi interessa anche lui. La pipa? Ah, no, è un giocatore solitario, eh? Anche era un giocatore solitario anche lui. Sì, gioca online. Gioca online. Sì. Sì. Perché lui sta a casa da martedì e ogni tanto fa vado nel mio ufficio, se ne va in balcone e si va a fumare la sigaretta. Invece tu mi rivedi che fumi anche la pipa. Martin gioca a scacchi e il signore gioca a scacchi. Ma sempre, io credo, nel mio caso, ma credo un po' tutti gli scrittori, soprattutto all'inizio, mettono dentro cose che conoscono meglio di altri. Infatti il mio primo romanzo è tutto ambientato nel quartiere dove ci sono i ristoranti italiani, che è il primo che ho conosciuto andando ad Amsterdam, e quindi ci si mettono dentro le cose che si conoscono meglio, e poi dopo sì. Però qualcosa di se stessi c'è sempre nei romanzi, a volte più significative, altre volte meno significative, però qualcosa di se stessi c'è sempre dentro. Gli scacchi un po' ci devono essere. Quindi nella lettura devo stare attenta alle mosse. Sì, che mi fa... Sì, che morsa di a cavallo.